di Ode we amante mwa Yo beti ane semi da ya man sori u Wekame onwa ya limi u Ampa no ma di di Wano ma di di Ampa no ma di di Yeah.